Notte sul Dodecaneso. Nel 1940, Antonio, un contadino che la guerra fascista ha trasformato in soldato, sbarca a Rodi. Partendo dalla sua storia, in tre puntate speciali, entreremo in pagine dimenticate del nostro passato. L'occupazione italiana in Egeo, l'8 settembre delle isole e la deportazione della comunità ebraica di Rodi e Kos. Il cimitero ebraico di Kos si trova alla periferia del paese che dà per lo più sul mare ed è frequentato per lo più da turisti, da tantissimi turisti durante l'estate. La periferia di Kos quindi non è tendenzialmente battuta dalle persone che vengono qua in vacanza. Il cimitero di Kos però è un luogo molto importante che ci ricorda la strage della comunità ebraica da parte dei nazisti qui a Kos. È appunto in periferia, lontano appunto dalle rotte turistiche, ci si imbatte solo per caso, non ci sono indicazioni che ci portano a questo luogo, indicazioni che per altri luoghi culturali in realtà esistono. Il cimitero appunto è una piccola pinetta circondata da un muro bianco molto ben pulito con un cancello che dà proprio su questa strada abbastanza trafficata. Strada trafficata che ci porta verso la periferia ed uscita di Kos. All'interno del cimitero c'è una lapide che ci ricorda perché esiste questo luogo. Nella lapide c'è un'incisione che ci dice che è stata messa in eterna memoria per la comunità, per i martiri ebrei di Kos uccisi nei campi nazisti. Cercando delle informazioni su internet, informazioni che dal vivo non abbiamo, e rifacendoci alle parole della pagina web dell'amministrazione della comunità ebraica greca, veniamo a scoprire che la comunità ebraica di Kos durante il 43 e il 44 viene deportata prima nel Pireo, nel porto di Atene, e poi da lì con dei treni ad Auschwitz. Le persone ebraiche di Kos quindi sono state uccise qui dai nazisti oppure deportate. Solo una persona farà ritorno nell'isola. La comunità ebraica di Kos è stata totalmente cancellata. Esiste la sinagoga che ci ricorda la presenza ebraica a Kos, ma anche quella è chiusa. È pulita e ordinata, così come questo piccolissimo cimitero, ma non c'è una comunità ebraica che l'anima. Nell'estate del 2023, a qualche settimana di distanza, sia Debs che io siamo stati nell'arcipelago del Dodecaneso. Prima di partire ci eravamo detti di provare a rintracciare in queste isole, fosse Kos, Rodi o Leros, qualcosa che parlasse del loro passato più recente, al di là dell'architettura razionale fascista. Nonostante 30 anni di occupazione italiana, di cui la maggior parte sotto il regime fascista, 2 anni di violento governo da parte del Terzo Reich e nonostante la quasi completa sparizione della comunità ebraica di 2 isole, sembra che questa parte di storia non parli per nulla all'identità nazionale greca di oggi, che pare averli quasi cancellati a parte alcune collezioni di reperti militari a Leros. Un silenzio quasi assordante lo definì Debs al suo ritorno. In questa terza puntata di Notte sul Dodecaneso, lo speciale di Balloon dedicato al biennio 43-45 dei possedimenti italiani in Egeo, Fre che vi parla assieme a Olga, Lara, Alessia e Perry, proveremo a far parlare questo silenzio, come ha fatto Debs con il suo audio dal cimitero ebraico dell'isola di Kos, entrando nella iuderia di Rodi e raccontando la storia di quei 1749 cittadini italiani di religione e di cultura ebraica che hanno affrontato il più lungo viaggio di deportazione di tutta l'Europa, iniziato da un pugno di isole di fronte alla Turchia fino al campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau nel cuore dell'Europa centrale. La comunità ebraica del Dodecaneso di fatto non esiste più. Dai lager sono tornate vive soltanto 181 persone, che però presto hanno preso la strada della migrazione, raggiungendo i luoghi già percorsi da tanti di queste isole, gli Stati Uniti, l'Australia, il Congo belga come la famiglia Mavrachi. A Rodi la vecchia sinagoga è ancora in funzione, ospita anche un bel museo storico, piuttosto frequentato, la Iuderia, il quartiere ebraico dell'isola, è proprio nel centro turistico della città, ma ovviamente non è che l'ombra di un passato in cui i templi dell'isola erano addirittura 5. Il silenzio di questi spazi è veramente assordante, anche quando se ne parla, anche se si ha modo di farlo parlare. Ho visitato assieme a Silvia la sinagoga vecchia di Rodi il 20 luglio e per quella che credevo essere una semplice coincidenza abbiamo avuto come guida Sammy Modiano, uno degli ultimi testimoni di Auschwitz e della Shoah ancora in vita in Italia Modiano è anche uno degli ultimi ebrei di Rodi. Lui e la moglie, Selma Dulmar, sono tra i pochi che ancora parlano la lingua degli ebrei sefarditi di Rodi, un ebraico che ha elementi spagnoli, evidentemente, greci, turchi ed italiani. La coppia torna ogni anno sull'isola per ricordare il rastrellamento e poi la deportazione della comunità, dal 19 al 23 luglio, e pensare che il 18 di luglio cade anche il compleanno di Sammy Modiano. All'interno della vecchia sinagoga in quel giorno non ci vengono raccontate né la deportazione né il lager, c'è tutto scritto nei suoi libri, ci dice Modiano, ma i riti, i giorni di festa, le persone e la vita del quartiere che ruotava attorno a quel tempo, quello sì che ci vengono raccontati. Il luogo di vita di una comunità che datava la sua presenza sull'isola dalla fine del XV secolo, quando gli ebrei arrivarono in quello che allora era territorio dell'impero ottomano, fuggendo dalla penisola iberica della Reconquista. Un pezzo fondamentale della storia di Rodi. Ma Modiano ci fa capire quanto la storia della Giuderia sia legata anche all'Italia. Ci arriveremo, ma le persone ebree del Dodecaneso negli anni 10 del Novecento optarono massivamente per acquisire la cittadinanza italiana al momento dell'occupazione, abbandonando i documenti turchi che 30 anni più tardi li avrebbero potuti salvare dalla deportazione. Modiano con noi ha fatto qualcosa di preziosissimo. Con i suoi ricordi, di cui lui è uno degli ultimi depositari, ha cercato di dar vita a qualcosa che non esiste più e che, quando lui non ci sarà più, scomparirà definitivamente. Vorrei chiederle della sua vita, a Rodi e nei campi e dopo i campi. Il resto può essere, risponde lei, ma non i campi. Perché non i campi? Perché non voglio essere quella persona. Le chiedo cosa intenda e lei descrive il tipo di sopravvissuta che ha raccontato la sua esperienza così tante volte da farla diventare atrofica, distante, meccanica. Non ne vede il motivo. Non ha mai voluto essere una storyteller dell'Olocausto, calcificata, senza nuovi pensieri o prospettive, con quell'evento così centrale, troppo centrale, in una vita lunga e stratificata. Rispondo che lo capisco. Eppure, se cominciasse a parlare con me della vita a Rodi prima, sulla falsa riga delle pagine che mi ha dato da leggere, e si riuscisse così a tramandare quel modo di vivere, quella gente, quel mondo, siamo rimasti in pochi. Dice lei pensosa. Altra buona ragione, dico io, perché quando lei non ci sarà più, la storia di questo posto e di quelle vite sparirà con lei. Pensa che non lo sappia? E in tono più dolce aggiunge: ci sono tante cose che non ho raccontato, diverse parti, quelle più difficili. L'esigenza di ricordare e per noi di provare a immaginare cosa fosse la Giuderia una volta non c'è stata solo quel 20 luglio. Come sempre accade con la letteratura, quelle sensazioni che abbiamo provato Silvia ed io le ha raccontato meglio di noi uno scrittore, l'americano Michael Frank, che nel 2023 ha pubblicato con Einaudi 100 volte sabato, Stella Levi e la ricerca di un mondo perduto. Uno strano libro, una via di mezzo tra il romanzo e il memoir, in cui lo scrittore americano ha riportato le 100 conversazioni avute per 100 sabati pomeriggio con Stella Levi, altra sopravvissuta della comunità ebraica di Rodi. Al centro del libro, ovviamente, la vita della Giuderia e le secolari tradizioni degli ebrei sefarditi, ma anche il racconto del cambiamento che gli italiani portarono nella comunità. Negli anni dell'occupazione italiana, infatti, si consuma una sorta di conflitto generazionale nella comunità. Da un lato, donne e uomini della Giuderia cresciuti sotto la sublime porta che vivono ancora alla turca, come si diceva. Dall'altra, la generazione di Stella, nata sotto il nuovo regno, che affianca sempre più spesso il rodelsi, la lingua tradizionale, con l'italiano imparato nelle scuole del nuovo governo, veste con la moda di Parigi e sogna di completare i propri studi a Roma o a Firenze. I rapporti tra comunità ebraica e autorità italiane sono quindi positivi. Il governatore Mario Lago, il primo governatore di Rodi, è un diplomatico di carriera e ha come obiettivo l'integrazione del Dodecaneso nello Stato italiano. Evita perciò quanto possibile conflitti, li avrà solo con la comunità ortodossa greca per questioni religiose e cerca di convincere i nuovi sudditi con la modernizzazione e il lavoro. A parte 17 persone, gli ebrei di Rodi opteranno tutti per la cittadinanza italiana. Nella memorialistica si fa coincidere il progressivo peggioramento della situazione con l'arrivo sull'isola del nuovo governatore, il quadrunviro della marcia su Roma, Cesare Maria De Vecchi. Per la comunità greca dell'isola, il suo nome viene associato al processo di italianizzazione forzata delle isole, con il bando all'insegnamento del greco. Per la comunità ebraica, il fascista De Vecchi è l'uomo che ha chiuso il locale collegio rabbinico e ha spostato il cimitero fuori città con forza. Anche se si trattava di progetti già avviati da Lago, questi passaggi a posteriori verranno letti come tragici segni premonitori. Saranno gli anni 30 l'introduzione delle leggi razziali, che De Vecchi applicò in maniera pedissequa, a veder cambiare radicalmente la situazione. Come ci racconta Marco Clementi, storico dell'Università della Calabria e autore, assieme a Irini Toliu, di Gli ultimi ebrei di Rodi, leggi razziali e deportazioni nel dodecanese italiano, 1938-1948, edito da Deriva Prodi nel 2015. Ovviamente le cose cominciano a cambiare dopo il 33, per un motivo molto semplice, perché nel 33 Hitler diventa cancelliere del Reich e a quel punto cominciano non tanto i maggiorenti quanto la giovane generazione, cioè i ragazzi delle famiglie ebree che andavano a studiare all'estero, cioè all'estero, stavano a studiare in Italia, ovviamente per loro doveva essere, diciamo, lo stesso paese, ma in realtà era anche un paese diverso rispetto alla situazione che loro avevano, perché il loro background culturale era sì, diciamo, influenzato dall'Alliance Française, ma tutto sommato era una cultura ottomana, quindi insomma comunque l'Italia era un paese nuovo per loro, e lì incontrano quello che si chiama il sionismo revisionista, che era un movimento, diciamo, estremo rispetto al sionismo tradizionale, perché tra le altre cose rivendicava il diritto di tutti gli ebrei europei di emigrare liberamente in Palestina, a prescindere dai permessi della potenza mandataria, che era la Gran Bretagna. E a quel punto questa paura della diffusione del razzismo in Germania, dalla Germania, diciamo, al resto dell'Europa e soprattutto in Italia, comincia a farsi strada all'interno della comunità, portata appunto da questi giovani. E lì la comunità, cioè la parte dirigenziale della comunità, reagisce male a questa cosa, non vogliono problemi, quindi chiedono proprio addirittura l'intervento del governo italiano affinché questi giovani si ravvedano in qualche modo e non mettano in dubbio il comportamento dell'Italia nei loro confronti, quindi un comportamento di lealtà e di credere alle parole anche dello stesso Mussolini, che diceva che in Italia non esisteva una questione ebraica e non ci sarebbe mai stata, e quindi da quel momento fino al 38 è un po' strisciante questa paura del fatto che potesse in qualche modo coinvolgere anche gli ebrei italiani. Ovviamente dopo il 38 cambia tutto. Nell'autunno del 38 avevo 15 anni ed ero pronta a cominciare la prima liceo, mi racconta. Aspettavo quel giorno da anni. Per me quel divieto fu una perdita molto intima. Mi venne sottratto il diritto di essere umana. Non so nemmeno se riesco a parlarne. Stella non sa nemmeno se riesce a parlarne, ma una volta cominciato è difficile fermarla. Felice, dice, con tutte le sue letture, con il suo amore per la storia, parlava sempre dell'espulsione dei loro antenati dalla Spagna. Era come se non fosse mai stata dimenticata. Le famiglie nella Juderia parlavano una lingua diversa, avevano una loro cucina, le loro superstizioni e cure, i loro proverbi, le loro canzoni. Sapevano che in passato, in un passato remoto, erano state cacciate dalle loro case, dai loro paesi, dalle loro scuole. Ma a quel punto vivevano in un mondo moderno, dice Stella, con la voce che diventa più alta e concitata. Avevano vissuto a Rodi per 500 anni, negli ultimi 25 sotto il dominio di italiani colti che ci avevano portato i libri, i vestiti eleganti, l'opera, i film, Shirley Temple. Arrivano notizie dagli ebrei del Reich. Alcune famiglie benestanti, come Menashe, in Otrica, gli Aladef, hanno iniziato a emigrare. Segnali caduti nel vuoto. Rodi non è la Germania, dicono i più. Neanche il passaggio dall'isola di due navi cariche di ebrei in fuga verso la Palestina mandataria, la nave Rim e la nave Pencho, destano eccessive preoccupazioni. Eppure i segnali, i resoconti, i presagi, le preoccupazioni, gli articoli di giornale, se niente di tutto questo era definitivo, non era nemmeno tanto vago. Che cosa avevi capito diventava perché non avevi capito. Lo chiedo con tatto. Sto cercando di guardare al passato, di stabilire che idea avessero loro del mondo dopo che erano stati privati dei diritti civili, perfino dopo aver sentito i resoconti sull'antisemitismo tedesco e trovandosi davanti a sempre più frequenti esempi dell'antisemitismo italiano, anche dopo che le famiglie benestanti apparentemente ben informate se ne erano andate. Stella risponde pacata: Michael, stai guardando il passato con gli occhi di chissà, devi tenerlo a mente. Noi non sapevamo, anche mentre salivamo a bordo della nave che ci stava portando via da Rodi, pensavamo: ma stiamo andando verso un'altra isola, andremo in un campo di lavoro, tutto questo è temporaneo e torneremo, è sicuro. La situazione cambia ancora una volta e ancor più radicalmente dopo l'8 settembre, quando al governo italiano si sostituisce quello del Terzo Reich. Il 19 luglio del 1944 viene ordinato, prima a tutti gli uomini, poi all'intera comunità ebraica, di presentarsi con i documenti al Palazzo dell'Aeronautica, in Viale Regina Elena, diventato sede del Kommandatur tedesco. Lo fanno tutti, nella convinzione di andare verso un campo di lavoro. Del resto, c'è poco da fare, i nazisti hanno i nomi di tutti quanti. Riescono ad uscire dal palazzo soltanto coloro che hanno mantenuto la cittadinanza turca grazie al console che li mette in salvo. Si tratta soltanto di 17 persone. La mattina del 23 luglio, volutamente una domenica, i tedeschi fecero suonare l'allarme aereo, anche se non c'erano aerei. Le sirene risuonarono e tutti i membri della comunità, nessuno escluso, più o meno 1700 persone, in gran parte vecchi, donne e bambini, si misero in fila e ricevettero l'ordine di tenere gli occhi bassi mentre venivano scortati attraverso la città dalla polizia militare tedesca, da una piccola unità di fanteria tedesca e da un gruppo di carabinieri. Si diressero verso il Mandracchio, poi lungo le antiche mura della città verso il porto. Tenevano in braccio i bambini più piccoli, c'era qualche vecchio con le stampelle, i bambini si aggrappavano ai genitori, i genitori ai bambini. Prevedibilmente Stella non seguì le istruzioni alla lettera e quindi alzò gli occhi, si guardò intorno in modo furtivo e non c'era nessuno. Nessuno vide, nessuno protestò. Conosceva di vista uno dei carabinieri che aiutava a controllare che il corteo avanzasse. Li seguiva in sella una motocicletta. Anni dopo l'avrebbe rivisto al porto di Napoli. Lui la riconobbe, si riconobbero, ma per paura o vergogna lui distolse lo sguardo e svanì nella folla. Il 23 luglio inizia quello che è stato definito, non a torto, il viaggio di deportazione più lungo di tutta l'Europa, finito il 16 agosto del 1944 sulla banchina della stazione di Auschwitz. Una deportazione che ha qualcosa di assurdo ai nostri occhi. Ricordiamolo, in quel momento i nazisti hanno già perso l'Italia meridionale e Roma e gli alleati sono già sbarcati in Normandia. Più di 1700 persone fermate nell'arco di 3 giorni dalle autorità tedesche che avevano preso il controllo dell'isola da neppure 10 mesi. La domanda che rimane, ovviamente, è se gli italiani abbiano svolto un qualche ruolo o se abbiano comunque qualche responsabilità in tutto questo. Sentiamo ancora Marco Clementi. Quando Rodi viene occupata dai tedeschi, le figure italiane che rimangono nell'amministrazione sono figure di secondo piano rispetto a quelle anche di spessore diverso, rispetto anche a uno stesso De Vecchio. E che cosa fanno queste figure qui? Cercano di mettere su un teatro, almeno questo secondo la loro ricostruzione postuma, diciamo alla fine della guerra, ma poi secondo me questa ricostruzione viene anche un po' smentita dalla documentazione che abbiamo. Comunque, cosa dicono? Dicono, siccome l'amministrazione civile rimane in piedi, perché i tedeschi non sono interessati a passarla a qualcuno, non la vogliono passare sicuramente a se stessi perché sono impegnati militarmente, né tantomeno ai greci di cui non si fidano. E quindi dice, vabbè, la lasciamo agli italiani. Ovviamente gli italiani sono occupati, però aderiscono alla Repubblica di Solo Perù, per cui in qualche modo sono anche alleati. È una situazione complicatissima perché c'è moltissimi, tra cui anche la maggior parte dei carabinieri reali, non aderisce alla Repubblica di Solo, moltissimi soldati non aderiscono, quindi abbiamo una situazione molto drammatica, no? In cui queste autorità civili che cosa fanno? Cercano, sempre secondo quello che loro hanno raccontato, di salvare il numero più alto di italiani prigionieri dei tedeschi. attraverso un sistema di carte d'identità falsificate oppure di facendoli scappare lì dalle isole. Non era poi così difficilissimo, anche se non era neanche facile perché per un fatto di guerra, ma insomma ci sono dei tentativi, alcuni anche riusciti, di fuggire da Rodi e di raggiungere la Turchia. Benissimo. Ora, in questa situazione i tedeschi che cosa fanno? Arriva l'ordine da delle SS che vengono mandate a Rodi nel contesto delle deportazioni dalla Grecia, arriva l'ordine di deportare la comunità ebraica di Rodi. Comunità ebraica che in quel momento è dispersa, perché? Perché i bombardamenti alleati che colpivano anche il porto colpiscono la Giuderia, che è vicino al porto, e quindi ci sono vittime, un numero anche abbastanza elevato, parliamo di decine e decine di civili della comunità che periscono sotto i bombardamenti inglesi, molti perdono la casa. Insomma, quella comunità così abbastanza compatta che viveva tutto in un solo luogo non vive più nello stesso luogo, vanno a finire nei villaggi intorno a Rodi. Per cui non è facile rimetterli tutti insieme, stiamo parlando di oltre 1.600 persone, circa 1.700 persone, comprese le donne e i bambini. C'era addirittura una signora che aveva quasi 100 anni, che era non si poteva neanche muovere, insomma aveva grosse difficoltà, eccetera. Allora cosa fanno queste teste? Si rivolgono all'amministrazione italiana e chiedono l'elenco di tutti gli ebrei presenti a Rodi in quel momento, Rodi intesa come isola. L'amministrazione, questo siamo nell'aprile del 44, l'amministrazione italiana che cosa fa? Concede questo elenco, proprio come loro lo richiedono, cioè per blocchi familiari. E quindi noi abbiamo un elenco che comprende 1.660 nomi divisi per famiglie, e questo elenco poi è stato ritrovato all'interno della documentazione archivistica. Viene consegnato in duplice copia, una copia al capo della pretura del tribunale, diciamo, penale italiano, che si chiamava Rossi, primo Rossi, e un'altra copia viene consegnata a polizia segreta, proprio Geheimpolizei viene definita nel cartello. Quindi quando poi le autorità tedesche arrivano per radunare, diciamo, per portare a termine questa operazione di deportazione, gli italiani favoriscono che cosa? La diffusione dei loro ordini, che era quella di far confluire tutti gli ebrei che si trovavano al di fuori di Rodi in punti di raccolta, in punti in cui si dovevano registrare, al centro dei villaggi dove loro si trovavano. Quindi diciamo che il ragionamento che io faccio è questo: se gli italiani avevano come doppio gioco quello di salvare più vite possibili di italiani, non lo fanno con gli ebrei che erano anche loro italiani, tutti cittadini italiani. Non solo non lo fanno, cioè non solo non li avvertono, non solo non fanno in modo che questa operazione di rastrellamento sarebbe stato impossibile, quindi di volontaria presentazione non avvenga, va bene? Ma addirittura stilano questi elenchi che vengono richiesti e poi partecipano in modo sostanziale, addirittura dopo la deportazione, alla spoliazione dei beni ebraici, formando delle commissioni che loro dicono dopo: no, ma queste commissioni erano state fatte per la conservazione dei beni, che poi quando questi fossero casomai tornati sarebbero stati restituiti, ma che in realtà servivano proprio per una spoliazione vera e propria, tanto che da quei beni attingevano sia gli italiani, e ci sono anche degli elenchi di fortune trovate ad alcuni di questi amministratori, sia gli stessi tedeschi quando avevano bisogno di qualcosa. Quindi io direi che in questo caso l'appoggio alla deportazione è stato quasi determinante, direi, quasi determinante. Abbiamo scelto di intitolare il progetto Eclissi di una comunità per evocare uno dei tratti più caratteristici di questa vicenda. La comunità viene deportata quasi per intero in un giorno. In un giorno viene spazzata via una presenza ebraica molto radicata, molto vivace e integrata, ma la comunità non viene distrutta. Nonostante i sopravvissuti non facciano quasi più ritorno a Rodi, la comunità continua a vivere grazie a un altro carattere distintivo, ovvero una significativa dinamica di emigrazione che la rende oggi una comunità diffusa e distribuita in diversi paesi del mondo. È per questo carattere diffuso della comunità e della sua memoria che il nostro progetto vuole essere il più possibile partecipato e collettivo. Stiamo quindi costruendo una rete di partenariato con i diversi istituti che nel mondo conservano questa memoria e i suoi documenti, e abbiamo studiato una sezione del portale che sarà dedicata al crowdsourcing, ovvero alla possibilità di segnalarci e inviarci documenti e materiali, cercando di aprire un canale diretto con chiunque custodisca un pezzo di questa memoria. La dimensione partecipativa del nostro progetto viene inserita anche nell'installazione, che sarà realizzata in maniera volutamente incompiuta. Solo la partecipazione diretta del visitatore la renderà completa, veicolando il messaggio che la conoscenza degli eventi storici e il loro ricordo, la loro memoria, cioè quello che ricordiamo e sappiamo oggi, non è un atto passivo, ma richiede impegno, attivazione e coinvolgimento diretto di ognuno di noi oggi. Come chiudere una puntata in cui abbiamo cercato di far parlare il silenzio? È molto difficile. Per questo abbiamo chiesto a Sara Buda, ricercatrice del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, di prestarci qualche parola. Sara, di cui abbiamo appena sentito la voce, sta curando assieme alle sue colleghe Daniela Scala e Jasmine Ferrario Sardi un bellissimo progetto che cerca di riempire quei vuoti di cui abbiamo parlato in puntata, riprendendo anche l'eredità delle ricerche della storica Esther Finzi Menashe. Ebrei di Rodi, 23 luglio 1944, eclissi di una comunità. Sentiamo come si costruisce questo progetto. In occasione dell'80° anniversario della deportazione degli ebrei dal Dodecaneso italiano, avvenuta il 23 luglio 1944, la Fondazione CEDEC presenta un progetto di approfondimento storico e memoriale intitolato Ebrei di Rodi, 23 luglio 1944, eclissi di una comunità. Il progetto è curato da me, Sara Buda, e da Daniela Scala, con la consulenza storica di Liliana Picciotto. Consisterà in due interventi complementari che si richiamano l'un l'altro, ovvero in una installazione fisica interattiva che verrà esposta tra la primavera del 2024 e l'autunno dello stesso anno presso il Memoriale della Shoah di Milano, e un portale digitale contenente la ricerca che abbiamo avviato nel novembre 2022 a completamento della ricerca sui nomi dei deportati dai territori italiani. Conterrà poi un monumento dedicato appunto ai singoli deportati, dove cercheremo di convogliare tutta la documentazione rinvenuta assieme ai dati ricostruiti sulle vicende dei singoli deportati. Infine, questo portale conterrà uno spazio di approfondimento storico sulla deportazione dalle isole di Rodi e Kos. Il progetto riprende in qualche modo quindi la ricerca avviata già alla fine degli anni 70 dalla Fondazione CEDEC sui nomi dei deportati dai territori italiani, e trae nuovo impulso ovviamente dall'anniversario dell'80° della deportazione, assieme a un lascito molto importante sia culturale, intellettuale che materiale di Esther Menashe, la quale ha dedicato una parte importante della propria vita a diffondere anche in Italia la conoscenza della storia degli ebrei di Rodi. Ringraziando Sara Buda, che ci ha raccontato Ebrei di Rodi, 23 luglio 1944, eclissi di una comunità, ai microfoni di Radio Città Fujiko, e lo storico Marco Clementi, noi chiudiamo questa terza puntata di Notte sul Dodecaneso, che abbiamo trasmesso in occasione del Giorno della Memoria del 2024. Con delle storie del passato che ci hanno fatto parlare di mare e di isole, di fughe e deportazioni, noi vogliamo augurarci un futuro in cui il nostro mar Mediterraneo possa diventare uno spazio di pace, di salvezza, di solidarietà e mai più di morte. Notte sul Dodecaneso è uno speciale in tre puntate di Van Loon, la mezz'ora di storia di e con Radio Città Fujiko. Il biennio 43-45 dei possedimenti italiani in Egeo attraverso la storia di Antonio, telegrafista della divisione Regina, e della deportazione degli ebrei del Dodecaneso. Puoi seguire il programma radio Van Loon la domenica mattina alle ore 11 sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko, o ritrovarlo sul nostro canale Telegram Radio Van Loon o sul nostro sito www.radiovanloon.info. Notte sul Dodecaneso, insieme agli altri speciali in podcast, è disponibile anche sulle principali piattaforme audio.